cari fratelli e sorelle, nelle ultime catechesi ho parlato su due grandi dottori della Chiesa del IV secolo, Basilio Gregorio Nazianzeno, vescovo in Cappadocia nell'attuale Turchia. Oggi aggiungiamo un terzo, il fratello di Basilio, San Gregorio di Nissa, che si è mostrato un uomo di un carattere meditativo, con grandi capacità di riflessione, di una vivace intelligenza aperta alla cultura del suo tempo. E si è rivelato così un pensatore originale e profondo nella storia del cristianesimo. San Gregorio di Nissa nacque intorno al 335. La sua formazione cristiana fu curata particolarmente dal suo fratello Basilio, da lui definito padre e maestro, e dalla sorella Macrina. Compì gli studi apprezzando particolarmente la filosofia e la retorica. In un primo tempo si dedicò all'insegnamento e si sposò. Poi anche egli, come il fratello e la sorella, si dedicò interamente alla vita ascetica. Più tardi venne eletto vescovo di Nissa e si dimostrò pastore zelante, così da attirarsi la stima della comunità. Soprattutto dopo la morte del fratello maggiore Basilio, quasi raccogliendone l'eredità spirituale, cooperò al trionfo dell'ortodossia. Partecipò a vari sinodi, cercò di dirimere i contrasti tra le chiese, prese parte attiva alla riorganizzazione ecclesiastica e come colonna dell'ortodossia fu un protagonista del Concilio di Costantinopoli del 381 che definì la divinità dello Spirito Santo. Ebbe vari incarichi ufficiali da parte dell'imperatore Teodosio, pronunciò importanti omelie e discorsi funebri e si dedicò a comporre varie opere teologiche. Gregorio esprime con chiarezza la finalità dei suoi studi, lo scopo supremo a cui mira nel suo lavoro di teologo, cioè non impiegare la vita in cose vane, ma trovare la luce che consenta di discernere ciò che è veramente utile. E trovò questo bene supremo che è veramente utile per la nostra vita da uomini, trovò nel cristianesimo, grazie al quale, così dice, è possibile imitare Dio, la natura divina. Con la sua acuta intelligenza e le sue vaste conoscenze filosofiche e teologiche, egli difese la fede cristiana contro le deviazioni che negavano la divinità del Figlio e dello Spirito Santo o compromettevano la perfetta umanità di Cristo. Commentò la Sacra Scrittura soffermandosi sulla creazione dell'uomo. Questo era per lui un tema centrale, la creazione e vedere nella creatura il riflesso del creatore e trovare qui la strada verso Dio. Ma scrisse anche un importante libro sulla vita di Mosè che presenta come uomo in cammino verso Dio. Questa salita verso il Monte Sinai diventa per lui un'immagine della nostra salita nella vita umana verso la vera vita, verso l'incontro con Dio. E ha interpretato anche la preghiera del Signore, il Padre Nostro e le Beatitudini. Nel suo grande discorso catechetico espose le linee fondamentali della teologia, non per una teologia accademica chiusa in se stessa, ma per offrire ai catechisti un sistema di riferimento da tenere presente nelle loro istruzioni, quasi il quadro nel quale si muove poi l'interpretazione pedagogica della fede. Gregorio inoltre è insieme per la sua dottrina spirituale, tutta la sua teologia non era una riflessione accademica, ma era espressione di una vita spirituale, di una vita vissuta della fede. Così è divenuto il grande padre della mistica e prospettò il cammino che i cristiani devono intraprendere per raggiungere la vera vita, la perfezione. Esaltò la verginità consacrata e ne propose un modello insegno nella vita della sua sorella Macrina, che è rimasta per lui sempre una guida, un esempio di come vivere. Commentando la creazione dell'uomo, Gregorio mette in evidenza che Dio, il migliore degli artisti, forgia la nostra natura in maniera da renderla adatta all'esercizio della regalità, della responsabilità per la creazione affidataci da Dio. Attraverso la superiorità stabilita dall'anima e per mezzo della stessa conformazione del corpo, egli dispone le cose in modo che l'uomo sia realmente idoneo al potere regale, ma vediamo come l'uomo nella rete dei peccati spesso abusa della creazione, non esercita una vera regalità, e per esercitare realmente la regalità, la responsabilità per la creatura, deve essere un uomo penetrato da Dio e vivere nella luce di Dio. L'uomo, così ci dice San Gregorio di Nissa, è stato onorato da Dio e posto al di sopra di ogni altra creatura, e scrive: non il cielo è stato fatto a immagine di Dio, non la luna, non il sole, non la bellezza delle stelle, nessun'altra delle cose che appaiono nella creazione. Solo tu, uomo, sei stato reso immagine della natura che sovrasta ogni intelletto, somiglianza della bellezza incorruttibile, impronta della vera divinità, ricettacolo della vita beata, immagine della vera luce, guardando la quale tu diventi quello che egli è, perché per mezzo del raggio riflesso proveniente dalla tua purezza tu imiti colui che brilla in te. Nessuna cosa che esiste è così grande da essere commisurata alla tua grandezza. E meditiamo questo elogio dell'uomo. Vediamo anche l'uomo come è degradato dal peccato. E cerchiamo di ritornare alla grandezza, vediamo solo se Dio è presente, l'uomo arriva a questa sua vera grandezza. L'uomo dunque, così dice, riconosce dentro di sé il riflesso della luce divina, purificando il suo cuore, egli ritorna ad essere come era al principio, una limpida immagine di Dio, bellezza esemplare. Così purificandosi, l'uomo può vedere Dio come i puri di cuore. Se con un tenore di vita diligente e attento laverai le brutture che si sono depositate sul tuo cuore, risplenderà in te la divina bellezza. Contemplando te stesso vedrai in te colui che è il desiderio del tuo cuore e sarai beato. Quindi lavare le brutture che si sono depositate sul nostro cuore e ritrovare in noi stesso la luce di Dio. L'uomo ha dunque come fine la contemplazione di Dio, l'incontro con Dio. Solo in questa contemplazione potrà trovare il suo appagamento. Per anticipare in qualche misura tale obiettivo già in questa vita, l'uomo deve progredire incessantemente verso una vita spirituale, una vita in dialogo con Dio. In altre parole, Ed è questa la lezione più importante che San Gregorio Nisena ci consegna. La piena realizzazione dell'uomo consiste nella santità, in una vita vissuta nell'incontro con Dio che così diventa luminosa anche per gli altri e per il mondo. Grazie.